Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Cuor contento il ciel aiuta, lo abbiamo detto e sentito tante volte. Ma chi aiuta il nostro cuore a essere contento, a stare bene? Beh, oltre ai geni, all'attività fisica, alla dieta equilibrata, ci sono le relazioni, le soddisfazioni, le passioni, ma forse anche l'ambiente in cui vive. Dove sono allora i cuor contenti? Dove vivono e come stanno? Oggi, cari amici, conto molto sulla vostra collaborazione. Un cuore ce l'avete, un luogo in cui vivere ce l'avete, questo basta. Chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, al resto ci pensiamo noi. A proposito di luoghi e di cuore, c'è un luogo in cui sono custoditi, pensate, i cuori dei papi. Sapete dirmi dov'è il luogo? 800 24 00 24. Il cuore ha le dimensioni di un pugno chiuso e ha una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molte di più. A volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Non sei più tu che comandi quando sei innamorato. Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. Eccolo qui il cuore, innamorato o non innamorato, localizzatelo e ascoltatelo. Lo ascolteremo insieme, 800 24 00 24, qua in studio con me la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALTA, Associazione Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari, e responsabile del Centro Trombosi dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo ascoltato, ascoltare il cuore è abbastanza semplice, basta prendere il ritmo, ma c'è ritmo e ritmo. Il ritmo degli innamorati sappiamo che è più accelerato, ma può accelerare, può rallentare, bisogna capire da dove parte. Intanto dobbiamo imparare a trovarlo. E tutti pensiamo il cuore a sinistra, è vero, è a sinistra, ed è appoggiato sopra un muscolo molto importante che si chiama diaframma. Il diaframma è un muscolo che separa la parte non nobile dell'organismo, quindi l'intestino, lo stomaco, dalla parte che noi consideriamo più nobile, ma ingiustamente, che sono i polmoni e il cuore. Quando l'intestino lavora male, quando siamo agitati, quando il nostro stomaco si contrae per la rabbia o per l'ansia, il diaframma non si muove bene, il cuore è appoggiato sopra il diaframma e può darsi che dia dei battiti irregolari, che qualche volta possono diventare addirittura fibrillazione, ma qualche volta rimangono battiti irregolari. Quello che credo che tutti quanti dovremmo sapere è intanto dove trovarlo il cuore. Il cuore lo possiamo trovare al suo posto, che è esattamente a sinistra, appoggiato, diciamo, in corrispondenza della mammella di sinistra, e lo possiamo già sentire da lì. Se siamo abbastanza magri, poggiamo due dita. Oppure lo possiamo trovare il suo battito lontano, che è in corrispondenza del pollice, di solito a sinistra, lo si cerca, ma si sente anche a destra, nel punto del polso proprio, che poi si trasforma in dove comincia il dito. Oppure lo possiamo trovare sotto la mascella, quindi sotto la mandibola, andando a cercarlo nel battito della carotide. È importante sapere come batte il cuore nostro d'abitudine, e poi possiamo fare un giochino e vedere se ci arrabbiamo, rispondiamo a una telefonata antipatica o facciamo una rampa di scale, di quanto cambia il nostro battito. Quindi cuore a riposo nella normalità, e cuore quando reagisce. Quando riceviamo una notizia, facciamo attività fisica, siamo arrabbiati, quando reagisce, il cuore reagisce perché deve adeguarsi perché riceve un impulso dall'esterno, e quindi aumenta sia il numero dei battiti che la quantità, la forza con la quale spinge il sangue nelle arterie, quindi aumenta un po' la pressione. Questo è importante da dire, perché molte persone si misurano la pressione dopo essere arrivate affannate, per esempio in farmacia, si siedono di corsa, si misurano la pressione e poi dicono la pressione è alta. La pressione va misurata da fermi, così come i battiti del cuore vanno calcolati da fermo. Il cuore è elastico, è reattivo. Ascoltare il nostro cuore, sentendo il battito, è il primo messaggio che possiamo dare ai nostri ascoltatori, anche quello più facile, intuitivo. Quindi trovatelo. Quindi intanto trovatelo. A volte però il nostro cuore comunica con noi per vie traverse, tortuose, meno dirette. Così a volte il cuore fa girare la testa, oppure fa venire l'affanno, ci rende un po' formicolanti o particolarmente sensibili, freddolosi o più gonfi. Certo, questo è un problema di adattamento, ed è un adattamento che avviene non soltanto alle emozioni, ma anche per esempio al clima. Proprio per venire qui questa mattina ho provato a fare un piccolo gioco su internet e sono andata a vedere nell'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Sì. E nell'elenco delle pubblicazioni scientifiche, se mettiamo due parole che sono cuore e temperatura fredda, ci sono 280 pubblicazioni scientifiche recentissime su questo argomento. Sono andate a misurare, per esempio, come batte il cuore delle persone che lavorano in Russia nelle zone più sperdute, in situazioni climatiche molto molto fredde. Sono andate a misurarlo nelle persone in Brasile, che invece vivono in situazioni molto molto calde. Addirittura sono stati confrontati i casi di infarto, per esempio, cioè di malattia del cuore dovuta a un arresto della circolazione nelle coronarie che è causata da un trombo e da un coagulo di sangue, e hanno visto che effettivamente c'è differenza, ma la differenza più grande è quando si è nella fase dell'acclimatamento. Quindi vuol dire che se io prendo una persona che è abituata a vivere in un clima mite e la trasporto rapidamente in Alaska per fare una ricerca, se non la proteggo abbastanza, non la copro abbastanza, questa persona potrà avere una fase di adattamento delicata nella quale è più fragile. Se invece lo lascio in Alaska per 3 mesi, probabilmente si adatterà, e quindi la sua probabilità di andare incontro a un evento sarà più Portatemi bassa. Al caldo però, se dovete In portarmi. Effetti al caldo si sta meglio. Vero? Il freddo è nemico del cuore, perché gli infarti sono più numerosi durante la stagione fredda, nelle prime ore del mattino. Il freddo pesa sul vostro cuore? 800 24 00 24. Dottoressa Rotavender, lei parlava di Brasile e di Alaska, luoghi quindi, e questa è la ragione per cui in apertura ho chiesto ai miei ascoltatori di dirmi come sta il vostro cuore, ma di aggiungere anche dove vive, perché anche il luogo in cui viviamo ha una certa influenza. Allora forza, ditemi dove vivete, scopriremo tante informazioni utili. Qui in studio con me Rossella Cadeo del Sole 24 Ore. Ciao Rossella. Ciao, buongiorno a tutti. Che oggi pubblica la ricerca sulla qualità della vita nelle province italiane, giunta alla sua 23esima edizione. Allora Rossella, sai che io con i numeri ho qualche problema, tu raccontaci a parole i dati. Sì, questa infatti è una ricerca piena di statistiche che potrebbe un po' scoraggiare all'inizio, però abbiamo questa classifica finale, queste varie classifiche che destano sempre abbastanza interesse. È una classifica che facciamo, come hai detto tu Nicoletta, da 23 anni. È una classifica... Quindi siamo molto bravi a farlo. Sì, piace ancora. Sì. È basata su 36 parametri. Questi sì. 36 parametri sono suddivisi in 6 categorie, in 6 settori di indagine. E per ogni classifica, per ogni settore di indagine abbiamo un punteggio. Questo punteggio poi gioca nella classifica finale, dove abbiamo le 107 province sulle quali si articola questa classifica ancora quest'anno, finché non vengono riaccorpate, riviste e quant'altro. Abbiamo una provincia dove si vive meglio, una provincia dove si vive peggio. E qui non riserva molte sorprese il risultato di quest'anno, perché abbiamo come prima classificata Bolzano, che ha già vinto 3 volte negli anni passati, e come ultima classificata abbiamo una provincia meridionale pugliese come l'anno scorso, ed è Taranto. E sono però chiaramente delle classifiche basate su statistiche, sì. Non sono classifiche basate sulla percezione, quindi è chiaro che un tarantino può benissimo trovarsi a suo agio nella provincia di Taranto, come anche un vacanziero o chiunque altro possa trovare degli stimoli positivi. Queste sono statistiche basate su dati, è una classifica basata su dati statistici che prendono in considerazione elementi come il posto di lavoro, come la dotazione di infrastrutture. Io vorrei che tu ci aiutassi, prendiamo in esame gli elementi che aiutano il nostro cuore. Sai che il cuore ha bisogno di muoversi, dobbiamo portarlo un po' in giro, soprattutto dobbiamo farlo pompare, questo ce lo assicura una costante, corretta e regolare, certo, e graduale attività fisica. Rossella, quali sono le province più virtuose in questo senso, dove è più facile muoversi e dove si muovono di più? Abbiamo proprio un parametro che si riferisce all'indice di sportività. È un parametro che è compreso nella sesta categoria, quella del tempo libero. Abbiamo Parma, Genova, Trento, Treviso come province migliori dal punto di vista della sportività. Però, quindi Renato che mi scrive: buongiorno, sono Renato e vivo a Trento. Essendo vivendo a Trento, possiamo dire che vive già in una città in cui, secondo questa ricerca sulla qualità della vita nelle province italiane, ci si muove bene. Sì, assolutamente, come esercizio fisico. Bisognerebbe andare a vedere anche un altro parametro, che è quello più riferito all'ambiente, che è l'indice di ecosistema urbano, come si colloca Trento. In ogni caso, Trento, proprio nella classifica finale, è la terza classificata. Beh, quindi Renato, buongiorno, tranquillo. È veramente un buongiorno. Senti, volevo confrontarmi anche con la dottoressa Rotavender. Il cuore ha bisogno di muoversi ed è essenziale l'attività fisica per il nostro cuore, per cuori che stanno bene, per cuori che magari hanno avuto qualche problema? Sì, sempre. Il cuore deve essere tenuto in allenamento. Sì. L'allenamento deve essere graduale, e qua mi piace dire che qualche volta, quando parliamo di movimento e di attività fisica, identifichiamo immediatamente questo con un investimento per iscriversi in palestra, che poi nel 40-50% dei casi rimane un investimento per la palestra, ma non per noi. Ci sono le attività che noi svolgiamo quotidianamente. Anche qui è stato misurato quante calorie consumo in ogni minuto di un'attività fisica. Facciamo un esempio. Sì. Se io sto seduto tranquillo e sono un maschio, io consumo una caloria al minuto. Sì. Se io invece sono una signora, un genere femminile, ne consumo 1.1, un po' meno. Quindi evidentemente le donne tendono al risparmio anche nel consumo delle calorie. È vero che il sud probabilmente, chi lo sa, forse ha meno strutture, io non lo credo, però per esempio nel sud si balla. Sì. Si balla di più, credo, che la al pizzica, nord. Ad e allora, e per esempio, e che è un bellissimo esercizio aerobico. E quando si balla, il consumo di calorie per un minuto è 4.3 nel ballo lento e 11.3 nel ballo veloce, ed è una delle più alte, perché per la corsa si consumano 10 calorie al minuto, quindi vogliamo ballate se potete. Che fa bene al cuore, fa bene al cervello, fa bene all'umore e fa bene al respiro. Volevo introdurre anche questo. Ci sono alcune città nelle quali la pollution, l'inquinamento è molto alto. È dimostrato che, soprattutto Milano, tanto per fare un esempio che conosciamo da vicino, inquinamento vuol dire microparticelle, vuol dire broncospasmo, vuol dire che i nostri bronchi si costringono, si chiudono un po'. Quanti bambini asmatici si sono rivelati in questi anni. È importante, perché il respiro è il modo e quindi i bronchi, che sono il canale attraverso i quali l'aria entra per arrivare ai polmoni, è molto importante, perché se i miei canali, che mi portano aria dentro al polmone, mi portano meno aria perché sono stretti, perché sono irritati e infiammati per colpa dell'aria inquinata, il mio scambio a livello polmonare diventa meno efficiente, quindi io assorbo meno ossigeno dall'aria e quindi il mio cuore patisce, perché gli arriva meno benzina. Quindi nell'insieme, io non so se in queste statistiche possa mai essere considerata questa cosa, ma questa interdisciplinarietà fra chi si occupa di medicina, chi si occupa di statistiche, potrebbe essere interessante. Infatti siamo molto contenti di avere Rossella Cadeo qua in studio con noi oggi. Avrei però voglia di sentire i nostri ascoltatori, poi diamo di nuovo la parola a Rossella. Abbiamo Marta che ci chiama da Modena, una città che ti dice qualcosa, e Vincenzo da Pisa. Intanto che Rossella cerca a che punto sono nella classifica, sì, Modena e Pisa, sentiamo Marta per quale ragione ci ha chiamato. Marta, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Piacere. Allora, io sentivo la dottoressa che diceva che è più probabile soffrire d'inverno di palpitazioni o tachicardia, ho capito bene? Per d'infarto, direi decisamente d'infarto, okay. Ecco. Sì. Okay. Siccome io ho 59 meglio anni, una palpitazione di un infarto, sì. Perché sì. Però a volte, a me succede, non a volte, spesso d'estate, siccome soffro veramente tanto il caldo e per lavoro sono in macchina, quindi con il condizionatore sempre acceso, scendo dalla macchina, a volte penso mi viene un infarto, perché le palpitazioni vanno, mi sembra, a mille. Questo perché? cioè, d'inverno non mi succede, mi succede d'estate. Solo d'estate. Questo a Marta da Modena. Rossella, tieni Modena. Pronta. Modena. Questo fa parte della capacità di adattamento del cuore. Non dobbiamo sempre pensare che quando il cuore cambia ritmo questo sia un male. Lui lo fa per il nostro bene. Quando si passa da una temperatura, diciamo, ideale, come quella che può essere, spero che lei non metta il condizionatore a palla, anche perché così sprechiamo meno energia, ma quando passiamo da una temperatura ideale, che potrebbe essere 21-22 gradi, improvvisamente un clima molto caldo, c'è una vasodilatazione. Vuol dire che l'organismo, i vasi più periferici, quindi le piccole arterie e i capillari, si dilatano per disperdere questo accumulo di calore che sennò rischierebbero di avere. Quindi il fatto che il suo cuore si adatti in qualche modo, purché rimanga ritmico, quindi che il suo battito continui a rimanere armonioso e non faccia dei salti, questo è un adattamento, potrebbe essere un buon segno dell'elasticità del suo cuore. Marta vive a Modena, cosa ti dice questa città? Cosa ci racconta, Rossella? Dunque, posso dire che Modena è ben posizionata, si trova nella classifica generale al 13° posto, poi bisognerebbe andare a vedere nelle 36 classifiche, nelle 6 certo, di settore. Però direi che, come tutte le province del centro-nord, si trova, e soprattutto le province dell'Emilia-Romagna, sì, si trova molto ben posizionata. Quanto al discorso che faceva prima la dottoressa riferito alla possibilità di fare altro sport, altro movimento che non solo pensare di fare attività fisica in palestra. Movimento gratis. Movimento gratis. Sì. Ecco, noi abbiamo un indice molto interessante che chiamiamo la pagella ecologica, ed è l'indice di lega ambiente ecosistema urbano. Questo è un indice molto complesso, nel senso che è costruito a sua volta su una serie di altri indicatori che tengono conto di alcune infrastrutture delle province, delle città, e che riguardano appunto la possibilità di vivere in maniera più ecosostenibile, quindi zone a traffico limitato, piste ciclabili, strutture per favorire la ciclabilità, zone verde, verde urbano. Quindi è un indice al quale, tra l'altro, diamo un peso leggermente superiore rispetto agli altri indici, proprio perché è composto e perché diventa sempre più importante. E quali sono le province virtuose? Intanto, Vincenzo, magari tocca a lei, magari è Pisa. Andiamo a vedere. C'è Pisa? Pisa, beh, nella classifica generale anche questa Pisa, anche questa provincia è posizionata bene, è 31esima, quindi nella prima parte della classifica. Adesso dovrei cercarla. E intanto che Rossella cerca, Vincenzo parla. Buongiorno a lei, Vincenzo. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno la dottoressa. Buongiorno. Devo fare una domanda semplice. Vediamo, perché sai che le domande semplici mettono sempre in grande difficoltà. Io ho sempre timore quando mi dite faccio una domanda semplice. Vada Vincenzo. Visto che è possibile contare i battiti cardiaci da alcune vene sul braccio sinistro. Arterie, scusate. Niente. È possibile vedere sulla mano destra, sul dorso della mano destra, dei battiti? Cioè, ci sono proprio delle arterie che pulsano. Dunque, sul dorso della mano, dorso intendiamo la pollice e l'indice. Dunque non si dovrebbero vedere pulsazioni di arterie, perché le arterie in quella zona, lei intende fra le dita, se ho capito bene, nella parte dorso mano, cioè non il palmo ma la parte superiore, non si dovrebbero vedere arterie. In alcuni casi, siccome le arterie costituiscono un sistema idraulico che percorre il nostro organismo, che dovrebbe essere protetto dalle fasce muscolari, dal tessuto connettivo, quindi dovrebbe essere in qualche modo difeso, anche perché se ci rompiamo un'arteria perché è troppo superficiale, il sangue esce a fiotti ed è una situazione molto più imbarazzante che non se ci rompiamo una vena che smette prima di sanguinare. Non dovrebbero esserci arterie pulsanti. Qualche volta quello che vediamo non è tanto l'arteria che pulsa, ma è l'arteria che sta sotto un piccolo fascio muscolare, quindi lei batte sotto, ma sposta il piccolo fascio muscolare, che è quello che le governa il movimento del dito, e quindi lei vede di fatto battere, che corrisponde al battito, ma non è il posto giusto per misurarlo. Se si sposta sul polso, quello un battito più affidabile, però può essere che sia. E intanto misurate, se avete tempo, se avete desiderio, il vostro battito nella normalità, e provate a fare una corsetta, più una rampetta di scale. Provate a pensare ad una persona che vi piace in modo particolare, oppure che vi fa arrabbiare, e poi chiamateci, vediamo un po' le differenze. Ma vediamo, torniamo a Pisa con la nostra Rossella. Che cosa hai trovato di bello? Sì, Pisa, in questa pagella ecologica che fa parte appunto del capitolo servizi ambientali ambiente e salute è tredicesima, quindi vuol dire che ha una buona dotazione di verde urbano, ha un'aria meno inquinata che altrove, non parliamo di aria buonissima, in questo caso bisogna accontentarsi anche di una performance accettabile. Questo rapporto di Legambiente, tra l'altro, l'abbiamo pubblicato su Sole 24 Ore alla fine di ottobre, così anche lì si possono avere tutti i particolari su Pisa e sulla provincia di residenza. Quindi Rossella, ti saluto, so che tu devi ritornare in redazione. Ricordo sul Sole 24 Ore la ricerca sulla qualità della vita nella provincia italiana. Grazie Rossella Cadeo. Parliamo di cuore, parliamo di ritmo, parliamo che è proprio la voce del cuore, ci dà il suo passo, ci dice sono qui, mi sta capitando questo, ma il cuore parla anche a volte delle lingue che ci sembrano un pochino più difficili. Cosa ci succede? Ci gira la testa, ci viene l'affanno, c'è una mano che formicola, una caviglia che si gonfia, è sempre colpa del cuore. Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. Al di sopra di tutto, tu per compagna. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo? Possiamo anche misurare il ritmo del nostro cuore quando siamo felici. Forse il numero dei battiti non cambia, ma una cosa è certa. Quando siamo contenti, lui, il nostro cuore, sta bene e non è solo un modo di dire. Non è più solo un modo di dire che trova corrispondenza in senso figurato. La felicità fa davvero bene al cuore. E adesso ne abbiamo le prove. Da uno studio pubblicato su Psychological Bulletin dai ricercatori statunitensi dell'Harvard School of Public Health, emerge infatti, dati alla mano, che l'ottimismo e la soddisfazione proteggono la salute cardiovascolare. I ricercatori hanno preso in esame i risultati di più di 200 ricerche, incrociando i dati sulle malattie cardiovascolari con quelli relativi allo stile di vita adottato dai soggetti presi in esame e confrontandoli con alcuni marcatori biologici. E hanno rilevato che le persone con elevati livelli di buon umore seguivano uno stile di vita più sano, facevano più sport, mangiavano in modo più equilibrato e dormivano di più, di coloro che, invece, erano meno ottimisti e meno positivi nei confronti della vita. Non solo, coloro che si dichiaravano più felici avevano anche la pressione sanguigna più bassa, livelli inferiori di grassi nel sangue e un peso corporeo nella norma. Abbiamo scoperto, spiega Bohem, che gli individui più ottimisti hanno il 50% in meno del rischio di subire un evento cardiovascolare rispetto ai loro coetanei meno ottimisti. Trovate anche la ricerca naturalmente su Salute 24, il portale amico di Essere Benessere. Dottoressa Rotavender, abbiamo dato anche dei numeri. Sì. Perché il nostro cuore sicuramente è sensibile e ci sono alcuni valori che lo aiutano a stare bene, ad esempio colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa, ci sono circonferenza dell'addominale, insomma è vero che non sente il cuore, non sente ragioni, al cuore non si comanda, ma ci sono dei numeri che influenzano molto il suo stile di salute. Sono dei numeri che conosciamo, perché ormai credo che tutti sappiano che cos'è il colesterolo, tutti sanno che cos'è la pressione alta, forse un po' meno persone sanno che cos'è il girovita. E forse il girovita è la cosa più semplice, perché basta un centimetro da sarta di quelli morbidi, basta mettersi davanti allo specchio, avere il coraggio di farlo, non trattenere il respiro perché quello diventa un bluff, e misurarsi. E misurarsi vuol dire che la donna dovrebbe avere un girovita uguale o inferiore a 80 centimetri, 80 ho detto, un uomo dovrebbe avere un girovita inferiore o uguale a 94, quindi ha un agio più alto, sopra queste misure non va bene, perché vuol dire che sul girovita si è accumulato del grasso che è sotto la pelle, ma quel grasso c'è anche intorno ai visceri, quindi intorno all'intestino e anche intorno al cuore, e quel grasso va consumato. Il grasso non è spalmato, il grasso è nelle cellule. La pancia bisogna buttarla giù. No, ma bisogna lavorare, è molto importante. Ci sono degli esercizi assolutamente stupidi, apparentemente stupidi, come mettersi davanti a uno specchio, tenere fermo le gambe e il bacino, mettersi un vecchio manico di scopa dietro alla testa tenendolo con le braccia e fare delle voltarsi verso sinistra, verso destra, verso sinistra, verso destra, e si sentirà lavorare proprio la vita. Sì. Dopo un mese, questo è garantito ed è provato anche su persone le più scettiche, questo fa scendere i centimetri del girovita. Se scendono i centimetri del girovita, vuol dire che scende il grasso intorno al cuore. Se scende il grasso intorno al cuore, diminuisce il rischio cardiovascolare, la nostra manutenzione è più efficace. Vittoria da Milano, Stivi da Trevisi ed Elena dalla provincia di Brescia. Buongiorno Vittoria, benvenuta. Buongiorno, grazie a tutti. Due domande alla professoressa, per cortesia. Io ho un cuore definirei ballerino, soprattutto quando mi sdraio, salta, ma salta talmente tanto che sembra che addirittura faccia come dei fuochi d'artificio. Scusatemi. No, ma perfetto. Mi è piaciuta. È proprio così, ecco, e salta talmente tanto che la maglietta si muove e ne percepisco quasi la forma del cuore all'interno del torace. Ho provato, mio padre mi aiutava in questo senso, a fare degli esercizi con la mente per vedere di, e ci sto riuscendo, di rimetterlo in carreggiata, dandogli il ritmo giusto con questo sistema. Inspiro, faccio una lunga inspirazione, prendo molta aria, riempio i polmoni, mi fermo con la bocca, la trattengo all'interno dei polmoni, poi con la mente do la cadenza che voglio io. 1, 2, 3, 4, nel giro di pochi secondi il mio cuore si mette a ruota della mia testa. Questo Vittoria, è possibile, perché questo ci sono, risale proprio a quello che abbiamo detto prima, perché la respirazione, l'estensione del diaframma possono riportare equilibrio nella posizione che il cuore ha appoggiato sopra il diaframma. Il cervello, che non è l'ultimo arrivato ma è l'organo che poi alla fine ci comanda volontariamente o involontariamente che sia, è capace di mandare degli impulsi che possono cambiare la nostra capacità di sudare, la nostra rapidità. Basta vedere, diciamo, lo yoga credo che sia basato proprio su questo. Quindi vorrei dire una cosa però alla signora: è molto importante che lei abbia trovato il modo per risolvere queste aritmie, cioè questi disordini del ritmo del cuore, ma è altrettanto importante, io di solito non spingo mai nessuno se non è indispensabile a fare degli esami, non è questa l'impostazione, ma in questo caso immagino che l'abbia già fatto, va valutata la tiroide, la sua funzione della tiroide, perché la tiroide è una ghiandola strana e ogni tanto impazzisce, soprattutto nella donna dopo i 50 anni, potrebbe dare lei questi impulsi, e va valutato con il suo cardiologo, con il suo medico di famiglia che le fa un elettrocardiogramma, se queste aritmie sono benigne, come le chiamiamo noi, oppure se sono aritmie sulle quali bisogna anche farmacologicamente intervenire, ma questo solo il suo dottore lo Stivi da Treviso, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Allora, io volevo chiedere, io ogni tanto, una volta alla settimana, di solito, quando ho tutto tempo, vado a correre a piedi. Io a riposo... Correre a piedi? Sì, Stivi, sì, corre a piedi. Vado a correre a piedi, sì. Non in bici. Non in bici. Chilometri, no, la bici... No, va bene. Quando posso. Ok. A riposo il mio battito cardiaco, quel 3 centimetro, sono sui 64-68. E poi quando corro, non è che sono grande, cioè granché allenato, come ripeto, vado una volta alla settimana. E arrivo a un battito cardiaco di 175-180, o anche un po' oltre se vado su delle salite così. Volevo sapere se... come range massimo ci può stare, o la norma quale dovrebbe essere più o meno. In generale ognuno di noi parte con una frequenza cardiaca che è la sua propria, diciamo, e questa può essere 60, 70, 80 e dipende anche dal grado di allenamento. La quantità, l'accelerazione, quindi la, l'aumento del numero dei battiti dipende anche dalle capacità di adattamento del nostro organismo e quindi del nostro cuore e anche di tutta la nostra muscolatura, ed è normale che il cuore acceleri quando lei chiede al cuore di mandare più sangue, più ricco di ossigeno in periferia. È importante che questo non si accompagni a un affanno importante. È evidente che chi corre va in affanno, nel senso che respira in un modo diverso da come respirava a riposo. È importante che questo respiro accelerato non diventi affanno. Abbiamo ancora Elena dalla provincia di Brescia. Elena, rapidamente, prima delle informazioni sul traffico, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, praticamente io faccio due rampe di scale, arrivo su, il cuore mi batte, mi esce quasi, diciamo. Mi esce. Sì, ballo il boogie, se ho ballato il boogie, che lo ballo sempre, non quello acrobatico, diciamo, niente. Finito il boogie, subito un altro ballo. Sì, mi batte un po' più, appena appena del necessario, diciamo. Come mi batte adesso parlando con voi. Mi emoziono, sì. Ecco, vuol dire che si emoziona quando fa le scale e non si emoziona quando balla? Non lo so. Ballo poi con un uomo. Io non la so dare una risposta a questo. Quello che posso dire è che forse il modo in cui lei balla il boogie e anche l'umore che ci mette quando lo balla, perché lo fa volentieri, può riequilibrare in qualche modo la capacità di adattamento del suo cuore, e forse è un movimento più veloce, celere, però è costante. La scala richiede anche il movimento delle gambe, quindi vuol dire sollevare la gamba, e richiede un movimento muscolare un po' più faticoso diverso di quello che si fa in piano ballando. Però sinceramente se balla, e poi è una risposta di buon senso, ma non scientifica. Abbiamo detto che il ballo, che è un'attività assolutamente piacevole, fa bruciare le calorie, è allenante. Mette c'è di buon un'altra umore. Attività piacevole che noi possiamo fare tutti, facciamo tutti i giorni, ed è metterci a tavola. Ci metteremo a tavola tra poco con il dottor Ciro Vestita, che è in linea con noi. Dottor Vestita, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Noi pendiamo dalle sue labbra. Ci renda l'inverno una stagione amica. Qua è durissima, perché stamattina altro che il buon umore, il cuore è così grigio. È così. L'alimentazione può fare tantissimo in questo caso. Essenzialmente tutte le giliacee, quindi aglio, cipolla, scalogno, asparagi, che sono anche sedili, di questo lo sappiamo. Però racconto un episodio per spiegarmi meglio. Io 20 anni fa accompagnavo dei pazienti nella migliore cardiochirurgia del mondo, Houston, professor De Bakey. Nacque con lui un filo d'amicizia, un giorno gli portai dei pasticcini. Mi guardò, mi ringraziò, io avevo 40 anni, e mi disse: guarda, ti ringrazio anch'io dandoti dei consigli per il cuore. Se vuoi salvare il tuo cuore, devi camminare tanto, non fumare, e fin qui va bene, un pompelmo al giorno e 3 volte la settimana zuppa di cipolle. Io rimasi un po' così, 20 anni fa non mi occupavo di fitoterapia, poi piano piano ho capito il significato di queste parole verissime. Perché? Perché nella cipolla, nell'aglio è presente la quercetina, che è in assoluto la sostanza più utile in campo vegetale per il cuore. Noi sappiamo, noi abbiamo studiato all'Università di Pisa dei soggetti in alcune zone, ad esempio in Garfagnana eccetera, che fanno un grande uso di queste giliacee, che ovviamente non fumano, che stanno bene eccetera, la percentuale di infarto si abbatte tantissimo. Potrei citare ancora un altro studio molto carino. Sono stati studiati i mormoni 3 anni fa. I mormoni hanno l'abitudine, una volta alla settimana, di fare digiuno con sola frutta. Cosa accade? Che le patologie cardiovascolari si abbattono in questi soggetti di quasi il 30%. Quindi se noi mettiamo a riposo durante la settimana, una volta alla settimana, con dell'acqua e della frutta, senza mangiare altro, quindi un filo di digiuno, abbattiamo notevolmente la percentuale di patologie cardiovascolari. In poche parole, se mangiamo poco, se mangiamo bene, se scegliamo alcuni alimenti, se eliminiamo tutti quegli alimenti mercenari, tanto pubblicizzati, ma poi ricchi di olio di palma, che è lesivo per le coronarie, io credo si possa stare veramente meglio. Dottor Vestita, le dico di più. Io adoro la zuppa di cipolle. Chiederemo al nostro chef Stefano Polato, chef di Mangia con me, di prepararci una ricetta per la zuppa di cipolla e la metteremo sul sito di Mangia con me. Invitiamo il dottor Vestita ad andare a leggerla e a provarla, e poi così, così cipolla aiuta il nostro cuore, la prepariamo a regola d'arte. Mi manca il pompelmo, che io consumo, devo dire, quotidianamente nella versione rosa, con un po' di miele e dell'aceto di lampone o di mele, ed è una cosa di una bontà, dottor Vestita, quindi il mio cuore ringrazia. Ma ringrazio, sì, devo dire che i pompelmi adesso sono anche italiani. Ho fatto un Linea Verde alla RAI poco tempo fa, vedevo queste piantagioni di pompelmo bellissime, sono frutti nostri, sono ancora acerbi, bisogna aspettare per la loro stagionalità, almeno inizi gennaio, ma vi assicuro, passando di pala in frasca, nel pompelmo è stata isolata, ricordo, la naringenina, una molecola capace di limitare, di frenare il virus dell'epatite C. Quindi se frena questa malattia gravissima, immaginiamo i miracoli che possa fare anche in altre patologie, quali ad esempio quelle influenzali che stanno arrivando, che per il cuore non sono un regalo. Io quindi sempre, ricordate la cipolla, aggiungete anche il pompelmo e gli agrumi in genere. Gli agrumi in generale, poi l'aglio, ricordando che purtroppo l'aglio italiano è sempre poco, ce n'è pochissimo, viene quasi tutto dalla Cina ed è germinato, insomma bisognerebbe sapere, andando al mercato, quali agli comprare, e banale non è. No. Dottor Vestita, grazie per essere stato voi, con noi, grazie. Buona giornata. Grazie, si avvicina qua in studio Marco Carminati, ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. È lui l'ideatore del nostro quizzettone, perché con Marco Carminati ci divertiamo, li pensa sempre lui, perché è lui l'esperto, a far vedere le relazioni tra arte e medicina. Ecco, in questo caso abbiamo posto una domanda. Noi abbiamo visto in passato i solenni funerali di un pontefice e abbiamo visto anche dove vengono collocati i corpi dei pontefici, nella Basilica di San Pietro oramai da molti secoli. Però fino a non molto tempo fa, cioè fino all'inizio del Novecento, i corpi dei pontefici venivano divisi. Proprio il cuore, che era ritenuto naturalmente una parte molto importante di questo corpo, non veniva sepolto nella Basilica di San Pietro. Ecco, io vorrei sapere dove si trovano i cuori dei pontefici? E intanto che voi potete chiamare l'800240024, forse non lo sa neanche la dottoressa Rotavender questo, se lo sa non lo dica, vero? Che no, però non lo so. Sa. No, non lo so. Ecco, lo so. Questo. Andiamo a Roma, perché c'è Francesca. Buongiorno Francesca. Buongiorno, la mia è più una curiosità. A me succede... quando faccio il pisolino pomeridiano. Bello, che è una cosa beata. Magnifica. Quanto, quanto è lungo il suo pisolino? Ma varia, anche perché io faccio un lavoro su turni, quindi dipende molto da... A volte è proprio una pennichellona. A volte pennichellona, a volte anche solo i 20 minuti che mi passano perfettamente per riprendermi. E cosa succede? Però, quando mi sveglio è come se io venissi svegliata all'improvviso e sento proprio il cuore in gola, un'accelerazione inimmaginabile. Infatti devo aspettare 2-3 minuti prima di alzarmi, perché proprio mi... Il cuore si risveglia all'improvviso e batte come un pazzo. Sì, anche perché nel frattempo, se il pisolino lo fa dopo colazione e quindi con lo stomaco pieno, c'è lo stomaco che le sta sequestrando una parte del sangue perché deve lavorare, e quindi può darsi che ci sia una piccola difficoltà per la circolazione nel riequilibrarsi e rimandare la quantità di sangue che serve dappertutto. Caro Marco, mi dicono dalla regia che Pietro da Piacenza è in linea con noi e forse ha indovinato. Sentiamo. Pietro? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Vada, Pietro. Io la sento allora, bene. Allora, sì, sono conservati presso la parrocchia del Quirinale, nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. Bravissimo, proprio così. E lei ha anche spiegato perché, dicendo la parrocchia del Quirinale. Questa è la chiesa che tutti hanno visto andando a Roma, perché chiunque di noi andando a Roma è andato a vedere Fontana di Trevi. La chiesa prospetta su Fontana di Trevi, è una chiesa bellissima, barocca, costruita da Martino Longhi il Giovane, con una facciata che è unica a Roma, per un potentissimo committente, il cardinale Giulio Mazzarino, niente meno che il primo ministro francese. All'interno, essendo proprio la parrocchia papalis, i cuori dei pontefici che morivano nel Quirinale venivano estratti dal corpo per essere imbalsamati e venivano portati in queste urne, e ancora oggi c'è una sala nell'abside, in fondo all'abside, una parte annessa all'abside, dove si conservano appunto i cuori dei papi fino a Leone XIII, fino al Novecento. Poi Pio X decise, insomma, che era meglio stare tutti uniti anche nella morte e venire portati tutti in San Pietro. Ringrazio tantissimo Marco Carminati e ci sentiamo per una proccia in fuoco. Benissimo, alla prossima. Grazie a Marco. Giuseppe da Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo chiedere alla dottoressa, ipertensione e alta quota in montagna, se bisogna adottare particolari precauzioni per chi soffre di questa patologia. Allora, quanti giorni bisogna, diciamo... bisogna stare. Allora, la pressione del sangue dipende dalla forza con cui il cuore manda il sangue nelle arterie. Credo che, a forza di ripeterlo, poi alla fine lo sapremo tutti. Quando si va in montagna, anche se l'aria è più pura, è più rarefatta, quindi la tensione dell'ossigeno, diciamo la quantità di ossigeno che è contenuto in una misura standard, che potrebbe essere un metro cubo d'aria, è minore, e questo fa sì che il cervello si lamenti perché il cuore gli sta mandando lo standard di sangue che gli manda con la quantità standard, invece gli serve più ossigeno, quindi dice al cuore accelera e soprattutto dai più forza al sangue. Chi soffre di pressione alta in pianura e sta prendendo dei farmaci dovrebbe sapere che quando va in montagna deve compensare, di solito aumentando il dosaggio, ma sempre chiedendo prima al proprio dottore. Allora, per oggi è tutto. Grazie dottoressa Rotavendere per grazie essere stata a voi, con noi. Sempre un piacere. Potete come sempre scaricare la puntata, potete seguirci su Facebook e su Twitter. Carmelo Lauricelle in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Per oggi è tutto. Cuor contento, il cielo aiuta. A domani.